Sei una ghiandola chiamata Graal. Era l'ultima cena con Lucifero. L'espressione sapeva vagamente di altro lato dello specchio, eh? E io volevo essere splendida, perfetta. Avevo impastato e cotto una pagnotta di grano, avena e segale farcita con pinoli e nocciole. La pagnotta doveva accompagnare una dadolata di seitan rosolato a lungo con fagioli, cannellini e verzariccia. E come antipasto avevo preparato un'insalatina di cavolfiori e zucchine crude, affettate finissime e marinate in olio extravergine di oliva, spremuto a freddo, nel quale avevo sciolto un trito di aglio, olive nere e sesamo nero. La bottiglia di Gewürztraminer aromatico e fresco al punto giusto era nella glacette, in attesa di essere stappata, e io mi sentivo come se avessi dovuto dare un esame all'università. Mi ero resa conto che, via via che lui mi comunicava le sue visioni, il mio pensiero diveniva più chiaro e ricco di dettagli. Ero sempre più in grado di visualizzare il suo pensiero ed ero convinta che il solo fatto di parlarne con me stesse già in qualche modo modificando il pensiero collettivo. Lui mi appariva come un essere luminoso e buono, e il vino doveva essere trasparente come lui. Indossai il mio abito da sera più sexy e mi truccai e pettinai con cura particolare. Era la mia ultima possibilità e non potevo fare cilecca. Quando arrivò e mi prese la mano per baciarla, come di consueto, ribaltai la situazione, appoggiai le mie labbra sul palmo della sua mano destra e glielo baciai a lungo, respirando lentamente. Mi accorsi che era turbato. Forse anche a lui dispiaceva che fosse il nostro ultimo incontro. Forse anche lui provava qualcosa per me. Mi sembrava di stare in un film, uno di quei film in cui un angelo e un'umana si innamorano e tutto finisce malissimo. Feci gli scongiuri del caso e guardai il cielo sopra la montagna. Accanto al giochino della seduzione, che ormai giocavamo apertamente e di tacito accordo, si era instaurato però tra noi un rapporto di stima e fiducia, e io provavo un'enorme gratitudine per quell'essere che mi onorava di aprire a me la sua visione e al contempo di aprire i miei occhi. Tutto andò come al solito, fatta eccezione per la chiacchierata finale che si svolse all'aperto sotto il cielo stellato, nonostante il freddo. Lui emanava un incredibile calore e lo stargli vicino scaldava anche me, come se fossi accanto a una stufa. Così, dopo cena, riempì, come al solito, i nostri bicchieri con l'ultimo vino rimasto. Mi prese sotto braccio e mi guidò in giardino. Ci sedemmo sotto gli alberi. Io appoggiai la schiena al vecchio frassino, guardiano del luogo, e lui a un giovane melo. E Lucifero cominciò a raccontare la sua ultima storia. C'è un racconto universale conosciuto nell'est come nell'ovest del mondo. La suprema divinità creatrice volle nascondere la regalità e la divinità degli esseri umani nell'unico posto dove loro non avrebbero mai potuto trovarle. Ma non sul fondo del mare o dei vulcani o sulle cime delle montagne più alte, secondo il consiglio di angeli e dei. Le nascose invece dentro gli esseri umani stessi, perché sapeva che lì non avrebbe mai cercato nessuno. Puah, conosco questa storia, me l'hanno propinata in tutti i seminari autoevolutivi degli ultimi 10 anni. Voglio la rivelazione. Il Graal è dentro di noi. Eh? Dentro, eh? Questo sarebbe in linea con il postulato di Ermete Trismegisto, secondo il quale voi siete piccoli universi. La famosa legge alchemica dell'analogia, come nel grande così nel piccolo, come sopra così sotto, ti ricordi? Il che significa, risposi, se comprendo bene, che ci sono due Graal, uno grande e uno piccolo? Rimase interdetto un attimo, forse non si era aspettato che capissi al volo. In effetti, sì, ma di quello grande non sono autorizzato a parlarti, lo scoprirai da sola tra qualche anno e ne scriverai un bel libro. Io sono qui per parlarti del piccolo Graal dentro di te, che non è un simbolo o un archetipo, ma un vero e proprio organo, anzi, una ghiandola, la ghiandola pineale. Uff, solo? Segui il mio ragionamento senza ironia, per favore. Il discorso è molto serio e profondo e ho bisogno che tu mi capisca bene, perché nei prossimi anni dovrei parlarne moltissimo. Mi ricomposi immediatamente, mi sentii stupida, infantile, mi scusai con gli occhi. Il Graal, riprese, si dice sia una coppa, però nessuno l'ha mai visto. Tuttavia è noto e accettato comunemente che chiunque beva dal Graal ottiene eterna giovinezza, guarigione da tutte le malattie e illuminazione. In definitiva, al di là della sua forma reale, il Graal è sicuramente un contenitore che conserva in sé un liquido in grado di offrire tali doni a chi riesca a berlo. Eterna giovinezza, guarigione da tutte le malattie e illuminazione. La ghiandola pineale, che chiamate anche epifisi, continuò, è grande come una lenticchia, sta alla base del vostro cervello e ha la forma di una minuscola ciotola. Questa ghiandola produce un ormone, la melatonina, che ha proprietà molto simili ai doni del Graal ed è dentro di voi, come racconta la storia, comprendi? Ero sbalordita. Ma perché nessuno ci diceva nulla di queste cose? Perché ci mantenevano nell'ignoranza e nella convinzione di non essere e non valere nulla? La melatonina, riprese, viene elaborata dal corpo durante la notte, momento nel quale la ghiandola raggiunge la sua massima attività. Ed è proprio di notte che le vostre facoltà intuitive più sottili emergono in voi. E si rafforza il sistema immunitario. Aumenta la produzione di energia, gestisce la temperatura interna del corpo e quindi il sistema cardiovascolare. Il tutto, intervenni incredula, interrompendolo, in un corpuscolo grande come una lenticchia. E non solo, riprese lui. La melatonina è la maggior sostanza antiossidante del corpo, quindi irrobustisce le funzioni antinvecchiamento e sviluppa le attività paranormali. Quindi, ricapitolai numerando sulle dita. Potendo bere questa melatonina, noi diventiamo immortali grazie all'effetto antinvecchiamento, guariamo dalle malattie grazie al rafforzamento del sistema immunitario e otteniamo l'illuminazione accrescendo le nostre facoltà paranormali. È così. Ero senza fiato, ma mi chiedevo come fare a bere da una ghiandola dentro il mio corpo. E quasi sentendo la mia domanda, riprese, arrotolando la lingua e grattando delicatamente la base del palato vicino all'epiglottide, dopo un po' si sprigiona una sostanza che gli antichi chiamavano divina amrita, simile a un muco, una piccola goccia di succo dell'immortalità che si può ingoiare. Ed è tutto, si tratta solo di allenare la lingua ad arrotolarsi abbastanza indietro. Perché abbiamo dovuto aspettare tanto per sapere questo? L'illuminazione doveva essere nascosta nell'unico posto dove non venisse in mente a nessuno di cercare, ricordi? Però qua e là sono stati seminati indizi tali da consentire a un occhio o a un cuore attento di scoprire la verità. Tipo? Chiesi io. Beh, Tommaso, per esempio, nel suo Vangelo scrisse al paragrafo 108, Gesù ha detto, colui che beve alla mia bocca diventa come me e io lui. E ciò che è nascosto gli è rivelato. Questo che significa? Si riferisce alla ghiandola pineale, al bere il succo che dà l'illuminazione e l'immortalità. Ma dice la mia bocca, non la vostra. Ricordati che Gesù ha definito se stesso il figlio dell'uomo ed è dentro ognuno di voi, quindi bere alla bocca di Gesù significa per traslato bere ognuno alla sua propria bocca, ma in coscienza di sé. Questo è molto metafisico, mi pare anche un po' tirato per i capelli, come diciamo noi umani. Non ci sarebbe qualcosa di meno interpretabile? Sì, la torre e la scala. Nella tradizione graaliana vi sono due simboli che vengono considerati intercambiabili tra loro e sinonimi della Sacra Coppa, la torre e la scala, appunto. Tant'è che il vostro Dante Alighieri, iniziato e gran maestro coinvolto nella storia del Graal, si rifugiò esiliato da Firenze dal suo amico Can Grande della Scala a Verona. È vero, accidenti. Mi sovvenni. Il simbolo degli scaligeri è proprio una scala che si restringe verso l'alto, ricordando la forma di una torre. Eh sì, la scala torre, come il Graal, sono legati a una tradizione che permette il raggiungimento della vera luce e dell'immortalità. Molte dee, regine e donne di conoscenza legate alla discendenza graaliana portano una torre in testa come copricapo. Questo è un indizio sul quale chi ha occhio e cuore attento avrebbe potuto interrogarsi. Per esempio, proseguì, la dea egizia Serapis reca sul capo il Gradal, ovvero una sorta di torre dove viene conservato il fuoco celeste, ossia la scintilla divina incarnata in ogni essere. In Francia, a Rennes-le-Château, dove alcuni sostengono che sia o sia stato sepolto il Graal, vi è la statua di una dea con il capo sormontato da una torre. Gli scrittori latini Strabone e Lucano sostengono che in quella regione un tempio della dea Diana sorge sull'oppidum Ra, che identifica una torre. In antico egizio e in ebraico la parola torre si scrive Mgdl e si legge Magdalo o Migdal, da cui viene amigdala, l'altro nome per la ghiandola pineale, e da cui viene anche Magdalena, la donna connessa al mito del Graal per eccellenza. Caridwen, la dea bianca e grande madre, regina incontrastata degli dei dal quinto al primo millennio avanti Cristo, definita da Apuleio l'omologa di Diana e Iside, dea della terra e detentrice del calderone che dava immortalità, assimilato al Graal nella tradizione celtica, veniva chiamata dai Celti anche Rhiannon, ovvero regina coronata da torre. Caridwen significa porta divina ed è raffigurata con una scala in testa. Il suo calderone è fonte di eterna giovinezza, inesauribile ricchezza ed è legato alla resurrezione del corpo che diviene immortale. Dunque, lo interruppi per fare il punto della situazione, questa torre posta sul capo delle regine e delle dee doveva servire a indicarci che il Graal va cercato nel capo? Sì, e c'è di più. La produzione di melatonina viene stimolata dalla serotonina secreta dalla ghiandola pituitaria, o epifisi, anch'essa nella vostra testa. Ma i tarocchi, l'arcano chiamato la torre, raffigura una torre sormontata da una corona e le corone si mettono sulla testa, conclusi per lui. Ora sembra molto evidente. Sì, grazie. La torre viene chiamata anche casa di Dio, eh? Riprese imperterrito ed è collegata alla linea femminile di discendenza del Graal. Perché femminile? Scandì. Alcuni anni fa certi vostri studiosi hanno ipotizzato a buon diritto che il Graal, anzi il San Graal, usando il nome per esteso, fosse la contrazione di Sangreal, ovvero il sangue reale, l'erede messianico dei figli di Gesù e Miriam Magdal. Quindi il San Graal diventava la discendenza messianica e per traslato il ventre stesso della Maddalena. Il legame tra ventre e Graal si conserva nella funzione della ghiandola pineale. Sta diventando davvero troppo difficile, sai? Protestai. Guarda che non sono un'endocrinologa. Non è difficile. Non cercare di capire. Permetti solo alle informazioni di risuonare dentro di te. Il mestro femminile, in particolare quello delle regine e della discendenza graaliana, era ricchissimo di secrezioni a base di melatonina e serotonina ed è per questo che si trovava nelle mense reali, in diluizione. Alla base del mito della coppa contenente il sangue di Cristo, come pure del vampiro che ottiene l'immortalità succhiando il sangue, si nasconde questa verità biologica, l'alta concentrazione di secrezioni endocrine del mestro femminile. Guardai le nostre coppe di vino e mi fu chiaro perché quella sera avevo istintivamente scelto un vino bianco. Sospirai. Ero stanca morta, ma lui fece finta di nulla e proseguì senza darmi tregua. Quando le donne vivevano in sintonia con la terra e con la grande madre, avevano tutte le mestruazioni nello stesso momento del mese, cioè la luna piena. Nelle tribù native in quel momento le donne erano considerate sacri canali del divino e si ritiravano tutte insieme per compiere riti di purificazione per la loro gente. Ora sai perché grattando con la lingua la base del palato e bevendo la goccia di secrezione che ne fuoriesce, l'amrita, Ciascuno di voi può trovare la sua immortalità se lo desidera. Il tuo compito adesso è quello di condividere con quante più persone ti daranno retta questi tre segreti: che il male non esiste, che il denaro è frutto della paura e che gli esseri umani possono ricordare la propria immortalità e il proprio lignaggio divino. Il silenzio divenne via via più pesante. Sentivo con una stretta al cuore che il nostro tempo insieme era agli sgoccioli e questa certezza mi avvolgeva come una cappa di dolore, una sensazione di perdita che non avrei mai più potuto colmare. Ora te ne vai, è vero? Non rispose, ma notai che i suoi immensi occhi si intristivano. Ma perché non puoi restare qua? Sbottai. Perché non puoi stabilizzare la tua vibrazione? Senti anche tu quello che sento io, non negarlo perché saresti un bugiardo. Lo investii con furia, figlia della disperazione. Non era previsto, sussurrò, e non è possibile. Potrei solo venire a trovarti saltuariamente. 7. Lucifero. Si alzò. Fece un passo indietro e mi guardò strizzando gli occhi così intensamente che mi sembrava di essere trapassata da un laser. A me si seccò la gola, come se avessi mangiato sabbia. Ingoiai più volte e cominciai a sudare. Forse avevo esagerato, avevo dimenticato chi avevo di fronte. Chiusi gli occhi e dentro di me ebbi la sensazione che mi avrebbe incenerita con quello sguardo. Attesi. In un silenzio apocalittico. Rivoletti di sudore colavano lungo la mia schiena, ma non accadde nulla. Mi azzardai ad aprire un occhio, solo un pochino, e lui era lì, immobile, di fronte a me, le braccia incrociate. Sembrava uno scultore che ammira la sua opera appena sbozzata dal marmo. Feci io. Non sono ciò che credi, rispose pacato. Non sei colui che porta la luce? Sillabai. Sì, infatti sono la manifestazione dell'energia Satan, l'opposta, il polo negativo della pila. Sono chi porta l'energia magnetica, quella che attrae e trattiene. Imbeccai. L'energia magnetica è femminile, riprese dopo una lunga pausa. Silenzio. Non riuscivo a spiccicare parola. Significa, sondai, che non sei maschio? No, non nel senso che intendete voi umani. Lucifero termina con la O perché fero è un verbo, significa io porto. L'energia di cui sono composto, cercò di spiegare, è quella della madre. I fratelli cinesi la chiamano Yin, la parte scura del Tao. L'energia del Satana è femminile, altrimenti non potrebbe trovare il suo complementare in quella maschile che voi chiamate Dio. Ma questo cosa c'entra con lo scegliere? C'entra, spiegò, poiché è nell'energia femminile che risiede l'infinita potenzialità, il crogiuolo della magia. Ancora silenzio. Ma allora perché mi sento attratta da te? Perché ti vedo maschio? Mi vedi maschio perché mi identifichi con la tua vecchia idea preconcetta di Lucifero. E poi ti senti attratta da me perché questa energia ti sta chiamando. Ti sta chiedendo di riconnetterti a lei e di lasciarla entrare nel tuo corpo, nella tua vita, ritrovando la tua matrice femminile e risvegliando, grazie al tuo personale risveglio, la coscienza della dea e di tutte le principesse del Graal. Di nuovo non capivo, ma io sono una donna, perché dovrei connettermi all'energia femminile se sono una donna? Non è automatica, rispose, né scontata nelle donne la connessione all'energia femminile, anzi la maggior parte delle donne non ne sono minimamente consapevoli, poiché la storiella di Eva e del peccato, abilmente costruita e manipolata, ha impresso il marchio della vergogna nella loro programmazione cellulare, così. La gran parte delle donne cerca in ogni modo di imitare gli uomini, vergognandosi della sua vera essenza. La consapevolezza dell'energia femminile, riprese, deve ritornare sulla terra sia nelle donne che negli uomini, poiché è lì che risiede il potere della magia. Ero senza fiato. per quest'ultima rivelazione. Mi ero sempre considerato una vera donna. Ero sexy, attraente, seducente, sapevo vestirmi e comportarmi in modo da non lasciare speranza a nessun maschio nel raggio d'azione. Lucifero parlò ancora, con voce bassissima, come la voce della terra stessa. La madre ha bisogno di voi, del vostro risveglio, ha bisogno che l'energia femminile, da millenni bloccata, ritorni a scorrere nel pianeta, perché è questa energia che vi libera dalle false credenze, dai limiti, dall'illusione del male e che vi dà la possibilità di vivere nell'abbondanza e di creare e di operare miracoli. Quindi io sono attratta da te perché voglio ricongiungermi con una mia parte dimenticata. Esatto, piccola. Grazie perché comprendi così in fretta. Fare l'amore è il simbolo più semplice e l'azione più efficace per creare legami. Ora ricorda ciò che ti ho detto. Parlane, parla con il maggior numero di donne e uomini che ti è possibile. Ma come farò? Dove troverò le parole? Resta flessibile, aperta a tutto ciò che accadrà, senza sforzo. Tutto arriverà da solo, vedrai. Il tuo istinto ti dirà cosa fare e dove andare. Ti invierà le parole e le persone che ti aiuteranno. Comunque ricorda che chi è pronto capirà velocemente, come te, e con chi non vuol capire, non insistere, non è il suo momento. In quel preciso istante, Lucifero cominciò a svanire. C'è ancora una cosa, giunse la sua voce come un eco. Cosa? Singhiozzai. Ogni tanto, beh, mi piacerebbe poter mangiare. Pensi che potrei approfittare della tua cucina? Mentre senza parole tentavo disperatamente di non piangere, mi cadde l'occhio sul vocabolario che era rimasto dove l'avevo lasciato la prima volta. Aperto alla stessa pagina con la macchia dorata a forma di rosa e lessi: Lucifera, colei che porta alla luce o dà alla luce. Epiteto di Diana. Fine.